Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, il programma che va in onda in diretta radiofonica come tutti i giovedì, anche oggi 2 aprile 2026, ma andiamo subito con la sigla di questa trasmissione. Bene, questa era la sigla iniziale per questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dal studio di Radio Onde Furlane. Trasmettiamo da Udine. Ricordo che la trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste e, appunto, essendo in diretta, quindi oggi è il 2 aprile 2026. Come detto, andremo avanti fino alle ore 21:30. Ora passiamo all'ascolto di questa band pugliese che si era formata all'incirca metà anni 90. Ha fatto uscire un bel po' di album, tra cui questo I sogni a naufragare, che è datato 2005. E loro, come ho detto, pugliesi, provincia di Taranto, sono gli Homophobic. Obofobic. Oh, scusate, Obofobic. Da sempre mi sono un fragone, ma adesso faccio una nemica, invece di libertà, ho Bentornate e bentornati all'ascolto di Zardins Magnetics anche per questa sera. Anche per questa sera, giovedì 2 aprile. E allora, stasera vorremmo un po' così ricordare i compagni Sara e Sandro, morti nella notte tra il 19 marzo e il 20 marzo scorsi, E prima di tutto per sì, perché è giusto ricordare appunto e anche ricordare in modo vitale, diciamo, queste due persone, questi due compagni, ma anche per parlare delle iniziative importanti che si sono svolte a Roma, appunto da parte di compagne solidali. Mi riferisco alle iniziative che si sono svolte il 29 marzo, e nonostante uno spiegamento di forze repressive inaudito, poi insomma ne parleremo. E diciamo che tutta questa vicenda, la vicenda della morte di questi due compagni anarchici, ha fatto così emergere in una maniera molto forte questi tentativi continui dello Stato e del potere di appropriarsi dei momenti, diciamo, cruciali dell'esistenza, in particolar modo in questo caso della morte, prima di tutto cercando di così sequestrare i corpi. Ricordo che i funerali diciamo ufficiali si sono svolti venerdì 27 marzo, ma fino all'ultimo la procura, insomma il PM, aveva cercato di non dare il nulla osta, quindi di non rilasciare i corpi dei compagni per lo svolgimento dei funerali, quindi era una sorta di sequestro delle salme, e tra l'altro risultava per un numero imprecisato di giorni, poi la roba si è sbloccata e quindi il funerale non è stato annullato, diciamo, ma c'è stato questa così tentativo di negare, ecco, la possibilità la possibilità di commemorare a proprio modo, come secondo i propri vissuti e i propri valori e le proprie idee della vita, appunto, questi due morti militanti. E sì, la questione, insomma, del controllare, diciamo, manipolare, amministrare la morte, soprattutto la morte del nemico di classe e dei rivoluzionari, non è cosa nuova, ahimè, cioè è una pratica diffusissima da parte appunto degli stati. Sì, in questi giorni ripensavo a un articolo, sì, che ha 10 anni, quindi vabbè, comunque un articolo che avevano scritto alcuni compagni curdi, proprio sulla faccenda della cartolarizzazione del lutto, cioè su questa gestione quasi, diciamo, finanziaria e comunque di bene di scambio dei morti. Nel loro caso si trattava del rapimento delle salme dei combattenti da parte dell'esercito turco, e proprio un vero e proprio sequestro delle salme, appunto, che vengono anche ancora tenute come ostaggi, e che è un modo per appunto tenere in scacco, diciamo, i combattenti, ma anche un modo per annientare così tutto un po' le dinamiche di comunità, no? Visto che la morte è un elemento importante della vita anche delle comunità. E lo scorso giovedì poi mi è venuto in mente che abbiamo parlato anche di questa banca della pelle messa in piedi dallo Stato genocida di Israele, che appunto mette a profitto le salme dei combattenti palestinesi, utilizzando dei campioni di pelle per ricostruire eventuali diciamo ferite, insomma danni causati da varie cose nei cittadini, insomma, di Israele. Anche questa è una forma di cartolarizzazione, ma anche di proprio spregio totale, ecco. Però nonostante questo è possibile appunto rivoltare la morte, diciamo, contro chi la usa per meglio governarci. E quello che è successo a Roma da parte dei compagni che hanno si è dato vita ugualmente alle commemorazioni, come potevano, ma comunque in maniera molto, sì, molto intensa, è una, sì, così, una prova, insomma, di questa, sì, della forza che sta intrinseca in questa, in questo rivoltare la morte. E quindi stasera daremo un po' di, così, faremo alcune letture. E poi cercheremo di parlare anche un po' della nuova legge che, dello Stato di Israele, che appunto istituisce la pena di morte selettiva per i palestinesi. E anche questa legge è stata approvata appunto il 30 di marzo scorso. Ciao a tutte e tutti anche da parte mia. Ecco, allora andiamo così alla lettura di queste, di questi contributi che sono, si possono trovare sul, tra l'altro sul Rovescio oppure sulla Nemesi, in occasione appunto della tragica scomparsa, insomma, dei compagni di Sara e di Sandrone. Messaggio di Stecco, letto il 29 marzo a Roma, all'interno di un capannello di compagne e compagni, accerchiato dagli sbirri, durante la commemorazione di Sandro e Sara. Cari compagni e compagne, vi mando questo messaggio ricolmo di dolore, ma anche di forza, dopo aver appreso del martirio dei nostri compagni Alessandro e Sara. Queste mura non mi impediscono di pensarvi ad uno, una ad una, in questo momento che ci tocca tutte e tutti. Ad Alfredo, che non può esprimere neanche con parole, con poche parole, il suo cordoglio, ad Anna, reclusa a Rebibbia. Per voi, ogni sentimento di fulgida tensione che dia impulso nel tramutare ogni lacrima scesa in questi giorni, ogni vibrazione nella viva preoccupazione in un seme da piantare nella lotta di ogni giorno. semi che germoglino in azioni che ci indichino la via verso la libertà per tutti e tutte. In alto al cielo i pugni, i vessili dell'anarchia, i drappi neri che ricordano i nostri caduti, che nel tempo hanno tracciato col loro sacrificio il sentiero per chi ne raccoglie l'esempio e la fiaccola che illumina il futuro che ogni nostro cuore intravede e ardisce. Uniti, camminiamo lungo la strada della rivoluzione. Insieme, alziamo la testa e respiriamo a pieni polmoni. Luca Dolce, Stecco, 24 marzo 2026. Roma, domenica 29 marzo, in ricordo dei compagni anarchici Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano. Nonostante il tentativo di bloccare l'appuntamento mattutino, nel corso del primo pomeriggio si è tenuto un corteo partito dal Quarticciolo e partecipato da più di 100 persone. I fermati della mattina, almeno 91, per i quali, oltre all'antisommossa, è stata impiegata anche la cavalleria della polizia, sono stati tradotti nella struttura dell'ufficio immigrazione della Questura di Roma e successivamente tutti rilasciati in serata. La giornata di domenica ha ulteriormente evidenziato come il tentativo delle forze repressive di isolare Sara e Sandro, prima avviando una campagna massmediatica diretta vanamente a intoccarne l'integrità, poi provando sistematicamente a bloccare i momenti e le iniziative in loro ricordo, non abbia ottenuto l'effetto desiderato. I familiari di Sara esprimono la loro solidarietà nei confronti dei fermati di questa mattina per il deposito di fiori nei pressi del casolare dove è avvenuta l'esplosione e il ringraziamento per la successiva manifestazione. Esiste una volontà da parte dello Stato e delle istituzioni tutte di isolare Sara e Sandro, di cancellare e di impedirne la loro memoria. Tutto ciò non è possibile, perché Sara e Sandro sono stati compagni coraggiosi, amici fraterni e persone troppo belle per essere dimenticate. Certi signori si sono convinti che chiudere 90 persone per svariate ore dentro l'ufficio immigrazione di via Patini fosse una buona idea. La verità è che in quelle quasi 11 ore di fermo preventivo è stato possibile raccontare a compagni e compagni più giovani il valore dei nostri compagni caduti, passando dal loro coraggio alla loro tenerezza. Solo gli stolti e gli sciacalli, che delegano il loro pensiero a giornali più utili a pulirsi il culo che la coscienza, possono credere che i vani tentativi di reprimere la solidarietà verso i nostri compagni siano stati efficaci, che Sara e Sandrone illuminino sempre il nostro cammino verso la libertà. Domenica mattina non tutti gli anarchici e i solidali che si sono recati al Parco degli Acquedotti di Roma sono stati fermati e portati in via Patini. Alcuni di noi sono riusciti a smarcarsi dai tentativi di fermo, a dimostrazione che qualunque sia il dispositivo di sicurezza messo in campo, ci sono sempre delle possibilità imprevedibili che permettono di aggirarlo. Più tardi, dal quartiere Quarticciolo, ci siamo mossi verso l'Alessandrino, dando vita ad un rumoroso corteo. I nomi di Sara e Sandrone hanno riecheggiato forte e chiaro nelle vie del quartiere dove abitavano. Noi anarchici non siamo vittime sacrificali per l'indignazione dei sinceri democratici e nemmeno cavie per esperimenti giuridici. Nonostante il numero enorme di persone poste in stato di fermo, siamo stati in grado di attuare ciò che ci eravamo prefissati. Nostro intento era infatti quello di rivendicare pubblicamente a testa alta la vicinanza di questi nostri compagni caduti combattendo per la libertà. Sì, e durante questo appunto corteo partecipato le compagne e compagni portavano questo striscione: un giorno dobbiamo morire ma tutti gli altri no, con Sole, Baleno, Criacco, Sara, Sandrone nel cuore. E il riferimento al discorso delle cavie giuridiche è perché appunto a queste 91 persone è stato applicato il fermo preventivo, che è questo articolo 11 del decreto sicurezza 59, praticamente è una specie di rievocazione insomma del fermo che veniva applicato durante il fascismo. Cioè tutte le persone considerate pericolose, diciamo, per la sicurezza pubblica, ma per la precisione le persone che mettono in discussione proprio lo Stato, e in occasione di manifestazioni politiche pubbliche, insomma, possono venire prelevati e tenuti dentro gli uffici della polizia in stato di fermo e per tutta la durata, fino a 12 ore, dice la legge, questa nuova legge. Quindi questa norma, insomma, che tra l'altro viola tutta una serie di faccende, compreso il diritto di difesa, perché è una specie di limbo quel fermo lì, e è stato appunto sperimentato in questa occasione, quindi per tra l'altro la manifestazione era stata vietata dal questore non per motivi di ordine pubblico, diciamo, ma perché proprio letteralmente ritenuta in contrasto con i valori della convivenza civile e democratica, attesa l'inclinazione ideologica dell'anarchismo contro l'ordine costituito. Going fast. E questo era What's Your Flag degli Agar the Womb, la canzone che abbiamo ascoltato prima invece si chiamava Idolization. Questa era una band che era attiva dall'81 all'87, una band inglese che poi si è riformata nel 2011 e che è ancora attiva. La prossima canzone si chiama Cardboard Theater. Continuiamo con la lettura dei testi diffusi in questi giorni nei siti di area e continuiamo, dicevo, con la traduzione di un messaggio che viene dalla Francia. Due compagni anarchici, Sara e Sandro, sono morti recentemente a Roma mentre lottavano in questa guerra sociale. Fino all'ultimo istante della loro vita hanno dato prova del loro impegno rivoluzionario. La loro abnegazione ci ispira e il nostro dolore, lungi dall'abbatterci, ci darà la forza di continuare la lotta anarchica per la libertà contro ogni forma di dominio. La stampa al servizio dello Stato sta cercando di fomentare un panico morale riguardo all'uso di un ordigno esplosivo da parte dei nostri compagni. Questi scagnozzi dello Stato sostengono la violenza solo quando serve a soddisfare la loro sete di potere e a conquistare nuove risorse materiali e umane da sfruttare. La determinazione dei nostri compagni sarà un monito per gli oppressori. Essi soggiogano interi popoli e si mantengono al potere con le loro guerre e le loro bombe, uccidendo civili ogni giorno. Finché persisterà questa violenza abietta, gli anarchici di tutto il mondo saranno il granello di sabbia nella loro macchina e la loro impunità non sarà eterna. Che la lama di Caserio, che 132 anni fa uccise il presidente Carnot, che le bombe contro le caserme italiane, russe o indonesiane esplose negli ultimi anni, o il sabotaggio delle loro fabbriche e delle loro case, tormentino le loro notti. L'anarchismo è indissolubilmente legato alle azioni dirette e alla solidarietà. Sara e Sandro ne erano la prova vivente e in migliaia continueremo a seguire quello stesso percorso, più forti della morte. E poi c'è in chiusura una citazione dell'intervento, diciamo, in tribunale di Sara durante un processo in cui era imputata. sono anarchica, come anarchica sono nemica di questo Stato, come di ogni altro Stato. C'è un'enorme differenza tra la violenza degli oppressi e quella degli oppressori. La prima segue un'etica, la seconda nessuna. Sara Ardizzone. Dal Cile. Pudiendo vivir en resignación, eligieron la lucha y la anarquía. Sara e Sandro presentes. Memoria e lotta per i compagni anarchici Sara e Alessandro. Lo scorso 20 marzo, dall'altra parte dell'oceano, è giunta una triste notizia. Due anarchici sono morti. Stavano preparando un colpo contro l'inerzia capitalista, un colpo contro la disperazione, contro la comodità dell'obbedienza, che è sempre la strada più facile rispetto all'incertezza della ribellione. Avrebbero potuto scegliere una vita di rassegnazione, eppure, in quell'angolo del pianeta, tra le rovine della città e la tensione di un'azione, la scelta dei compagni Sara e Alessandro è stata la sintesi di una lunga storia di lotta che intreccia passato e presente, contrapponendo la vita e la libertà ai sistemi di dominio e di morte. Sara e Alessandro hanno scelto la lotta e l'anarchia. Il nostro impegno è non desistere da questa strada. 29 marzo, giornata del giovane combattente. Dalle barricate rivendichiamo i compagni caduti a Roma. Forza, amore e solidarietà alle loro famiglie, amici e compagni. No al 41 bis. Libertà per tutti i prigionieri anarchici. Nessuna confusione, nessun dubbio, nessun rimpianto per l'anarchia. We'll be right back. qualcosa che è tutto. Non abbiamo lo stesso modo di affrontare la morte perché non abbiamo lo stesso modo di affrontare la vita. Non ci ripetiamo ipocritamente che di fronte alle più immani ingiustizie non possiamo fare nulla, né ci proteggiamo affermando che tutte le forme di violenza si equivalgono, mentre un abisso etico separa quella dell'oppresso da quella dell'oppressore. Si può trascorrere una vita diminuita in attesa di qualcosa che non arriverà. Si può morire in un incidente stradale o sul posto di lavoro, mentre altrove si muore sotto le bombe. Sara e Sandro, compagni anarchici che abbiamo avuto la fortuna di conoscere, hanno preferito il rischio della rivolta per un'idea che nessun muro poteva contenere. Li ricorderemo per sempre così. Per l'anarchia, compagne e compagni di Trento e Rovereto. si rozvěří, to nám se díky vás, jsou hlavně děti, nebudem to nikdy chápat, koho dnes si tu zápas. Umuče nezvěra, pareně umírá pre vás. A vám je to jedno, kedy se to skončí, záleží už len na vás. Robte s tím něco, umuče nezvěra, pareně umírá pre vás. A vám je to jedno, kedy se to skončí, záleží už len na vás. Robte s tím něco. Ecco, 20:55 di giovedì 2 aprile, state ascoltando Zardins Magnetics, un programma che va in onda tutti i giovedì sera in diretta, una cosa un po' stupida, forse non è mai stata così spiegata. Zardins Magnetics significa giardini magnetici. Giardini magnetici non è altro che un testo, diciamo, del movimento surrealista, André Breton e soci, e quindi i responsabili di questa scelta è diventato, diciamo, si perde nella notte dei tempi, non si sa più chi è stato. Comunque, per chi ecco certe volte chiede di ripetere il nome della trasmissione, Giardini Magnetici, semplicemente è Zardins Magnetics per i locali, insomma noi parlanti friulano eccetera, no? Ecco, voltiamo pagina, passiamo all'altro così argomento che volevamo trattare questa sera. Lo facciamo con una così per introdurre, con una poesia di Mahmoud Darwish. La saggezza del condannato a morte. Ho la saggezza del condannato a morte. Non ho cose da possedere, né posso esserne posseduto. Il mio testamento è scritto con il sangue. Fidatevi dell'acqua, abitanti della mia poesia. Ho dormito trafitto, incoronato dal mio domani. Ho sognato che il centro della terra fosse più esteso della sua mappa e più limpido dei suoi specchi e del mio patibolo. Mi sono perso in una nuvola bianca che mi sollevava da terra come se fosse un'ucupa e le mie ali fossero vento. All'alba la chiamata del guardiano notturno mi ha svegliato dal sogno e dalla poesia. Vivrai un'altra morte, quindi modifica il testamento. L'ora della tua esecuzione è stata nuovamente posticipata. Per quanto tempo? Gli ho chiesto. Aspetta di morire un altro po', mi ha risposto. E io gli ho detto: non ho cose da possedere, né posso esserne posseduto. Il mio testamento è scritto con il sangue. Fidatevi dell'acqua, abitanti della mia poesia. We'll be right back. Questo era Iggy and the Stooges, abbiamo ascoltato brani tratti dall'album Raw Power anche durante gli interventi. Il gruppo che abbiamo ascoltato prima erano i Conflict, scritti con le K, non come la band inglese, scritte con le C. Questa era una band slovacca. E prima ancora abbiamo ascoltato gli Ursula, che sono una band californiana. Adesso passiamo ai Violet Crimes e ci ascoltiamo alcuni pezzi di questa band. Yeah. Sì, allora dicevamo di questa legge che il 30 marzo la Knesset, cioè il Parlamento israeliano, ha approvato con appunto una legge che stabilisce la pena di morte mirata specificamente ai palestinesi. Questa legge varrebbe per la Cisgiordania occupata e impone ai tribunali militari israeliani di infliggere la pena di morte a chiunque venga condannato per aver ucciso un cittadino o un residente israeliano con l'intento di negare l'esistenza dello Stato di Israele. Quando questo disegno di legge è stato approvato con 62 voti favorevoli e 48 contrari, perciò coloro che lo hanno promosso hanno reagito con euforia. Come previsto, beh, ci sono queste immagini in rete, ma insomma forse anche in TV hanno fatto vedere, non so, di Ben-Gvir, questo mostro che è il ministro israeliano della sicurezza nazionale, che ha brandito una bottiglia di champagne, ha brindato con i colleghi deputati e i collaboratori. Tra l'altro anche sulla Rai, per dire, hanno detto che hanno fatto degli articoli, cioè hanno fatto degli interventi dove si parlava di... diciamo modificando prendendo spunto dal titolo di un film, Ascensore per il patibolo, era appunto Brindisi per il patibolo. E tra l'altro questo Ben-Gvir, siccome in questi gabinetti distopici discutevano anche dei metodi, no, per applicare la pena di morte, cioè dei metodi di uccisione, a fronte di un rifiuto da parte dei medici, dell'associazione dei medici israeliani di fare le iniezioni letali, hanno riesumato l'impiccagione, che è appunto questo metodo che esiste insomma nello Stato di Israele, cioè esiste diciamo storicamente, e questo Ben-Gvir da quel momento appunto indossa nel suo completino un cappio, una spilla a forma di cappio. Allora vi leggo una piccola testimonianza che è stata pubblicata su Invicta Palestina di un palestinese che insomma ha avuto una lunga storia di detenzioni e che appunto ora teme, diciamo, per la sua stessa, cioè che di poter essere addirittura fatto fuori, insomma, così legalmente. E ci sparano già senza motivo, ora hanno anche la pena di morte. E allora, scusate che trovo. Nella primavera del 2023 Ammar è stato arrestato per la settima volta nella sua vita. Il palestinese di 42 anni, padre di due figli, lavorava in una mensa nel campo profughi di Al-Arub, appena fuori Hebron, dove aveva vissuto per tutta la vita. Il primo arresto di Ammar avvenne all'età di 14 anni, quando un soldato lo afferrò per lo zaino mentre tornava a casa da scuola e lo fermò con l'accusa di aver lanciato pietre. Trascorse 5 mesi e mezzo dietro le sbarre, l'inizio di una serie di detenzioni che lo hanno perseguitato da allora. Durante il suo arresto più recente, Ammar è stato accusato di essere un membro del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. È stato tenuto in isolamento in una cella fredda e senza finestre e interrogato per 50 giorni. Le autorità israeliane non hanno presentato prove contro di lui e lui non ha mai confessato. Ciò nonostante, è stato rilasciato solo dopo che il suo avvocato ha accettato un patteggiamento che prevedeva 30 mesi di carcere e una multa di 12.000 shekel, 3.300 euro. Al momento dell'accordo, Ammar era già stato incarcerato per 28 mesi, la maggior parte dei quali nel famigerato carcere di Ofer. Da quando è tornato a casa, ad Al-Arub, alla fine di settembre, Ammar è tormentato da flashback e notti insonni. Le percosse quotidiane e la fame subite durante la sua ultima detenzione, ha raccontato, sono qualcosa che non aveva mai sperimentato prima in una prigione israeliana. Ora si reca settimanalmente da uno psicologo e da un fisioterapista per il dolore cronico alla schiena. Per il resto esce di casa raramente. Ma ora il familiare ciclo di arresti e rilasci ha assunto una piega molto più oscura. Dopo il suo rilascio, i soldati hanno fatto irruzione nella casa di Ammar, arrestandolo due volte, in un sistema in cui i palestinesi in Cisgiordania affrontano tassi di condanna quasi totali e vengono regolarmente incarcerati senza accusa. Ora teme che il prossimo arresto possa essere l'ultimo. Appunto, il 30 marzo, come dicevo prima, la Knesset ha superato una nuova soglia approvando una legge sulla pena di morte mirata specificamente ai palestinesi. In base alla legge i tribunali militari possono derogare a tale obbligo, cioè l'obbligo della pena di morte, e infliggere l'ergastolo solo in presenza di motivi speciali o circostanze particolari. Una versione precedente del disegno di legge non prevedeva eccezioni alla pena capitale, ma è stata modificata dopo che i militari hanno avvertito che violava il diritto internazionale, rischiando l'arresto dei comandanti all'estero. Quindi praticamente hanno messo questa clausola, insomma, che riguarda la deroga per pararsi il culo. La legge estende inoltre l'ambito del diritto penale per facilitare l'applicazione della pena di morte nei tribunali civili che si occupano di casi che coinvolgono cittadini israeliani residenti di Gerusalemme Est occupata. Attualmente la pena capitale nel diritto civile israeliano è riservata ai crimini contro l'umanità e al tradimento, il che significa che nessun palestinese è stato mai condannato a morte da un tribunale civile israeliano. Sebbene la prospettiva di esecuzioni legalmente sanzionate possa apparire particolarmente agghiacciante, rappresenta una logica estensione di un sistema carcerario già letale. Secondo un rapporto dello scorso novembre 2025 di Medici per i Diritti Umani in Israele, almeno 98 detenuti palestinesi sono morti in custodia israeliana dal 7 ottobre a causa di torture, negligenza medica e denutrizione, decine dei quali erano stati classificati come civili dagli stessi servizi segreti israeliani. Stiamo assistendo a esecuzioni extragiudiziali a ritmi allarmanti, con il sistema giudiziario che in larga misura avvalla tali pratiche, e ha spiegato una Miriam Azem, che è una coordinatrice per la difesa internazionale presso il centro legale Adalah di Haifa. Negli ultimi due anni, ha aggiunto, la Knesset ha approvato più di 30 leggi che rafforzano questo sistema di persecuzione etnico-nazionale, ma la legge sulla pena di morte rappresenta una delle aggiunte più estreme e pericolose, che consolida ulteriormente un sistema di apartheid che svaluta la vita dei palestinesi. La nuova legge elimina anche diverse garanzie legali, tra cui il requisito che la pena di morte debba essere inflitta solo con decisione unanime da parte di un collegio di tre giudici, e ora, insomma, viene consentita l'applicazione della pena capitale anche con una maggioranza di 2/3. E poi diverse altre cose, diciamo tecnicismi, ma insomma, che danno l'idea anche della efferatezza di questa legge. E, ad esempio, permette ai tribunali di infliggere la pena capitale senza l'obbligo, che invece era prima previsto, di una richiesta esplicita da parte dell'accusa, e impone che le esecuzioni vengano eseguite entro 90 giorni. E poi, inoltre, per i palestinesi sotto occupazione israeliana, e appunto Cisgiordania parliamo, la legge prevede la chiusura di ogni possibilità di grazia o appello, restrizioni che non si applicherebbero agli individui processati in Israele. Beh, tra l'altro, su questa questione qua del fatto che la legge non si applicherà agli individui processati in Israele, ma nello specifico agli israeliani, appunto questi politici genocidi sostengono che in Israele non esiste un terrorismo israeliano, esiste solamente un terrorismo palestinese, e che i coloni, le violenze perpetrate dai coloni sono semplicemente degli atti di, diciamo, disturbo dell'ordine pubblico. Vabbè, quindi sì, praticamente, non vi sto a leggere tutto perché c'è stato un iter legislativo rallentato da un acceso dibattito interno, diciamo, comunque, infatti 62 a 48 non c'è proprio questa maggioranza mostruosa, ma vi risparmio questa parte. Ecco, un altro elemento è che questo discorso della pena di morte apre potrebbe aprire a condanne a morte retroattive per il 7 ottobre. E tra l'altro questo discorso, diciamo, viene abbastanza sostenuto anche dalla popolazione dello Stato di Israele. E, sì, rispetto appunto a tutte le organizzazioni della resistenza palestinese, appunto mettono in allerta sul fatto che questa legge qua mira a trasformare le carceri israeliane in arene di esecuzione diretta e appunto tende a legalizzare l'omicidio etnico nazionale, insomma, che adesso è impunito, ma comunque, cioè, è coperto dalle forze dell'ordine e dallo Stato, ma che appunto rimane ancora illegale, e appunto porterà porta sulla strada, diciamo, di esecuzioni su larga scala. Quindi questa è la sì. Questa è la situazione, insomma, il livello di violenza dello Stato e di disumanizzazione che si stanno realizzando appunto in Cisgiordania da parte del dominio israeliano. Sì, e io volevo solo inserirmi semplicemente per dire una cosa, che occorre mobilitarsi anche qui da noi su questa vicenda, rilanciare il supporto, insomma, la solidarietà con il popolo palestinese. Una piccola così indicazione che possiamo darvi è seguire il canale Telegram dei giovani palestinesi in Italia, dove ad esempio sono già pubblicate, diciamo, delle iniziative di manifestazioni di piazza che si sono svolte oggi, giovedì 2 aprile, a Firenze, a Padova e a Milano, e naturalmente in aggiornamento seguiranno anche nei prossimi giorni. Insomma, va a colpire soprattutto, naturalmente, questo gesto efferato dello Stato di Israele va a colpire prima di tutto i prigionieri palestinesi, cosiddetti politici, ma nel senso quelli che hanno, insomma, quelli che resistono all'occupazione, quelli che si danno da fare, per la liberazione del loro popolo. Got you. Bene, allora lasciamo sempre in sottofondo questa band, loro sono i Decadent, band tedesca che si è formata a metà anni 80, questo è un loro album, più che un album, una compilation uscita nel 1994. E ricordo che siamo sempre all'ascolto di Zardins Magnetics, il programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dal studio di Radio Onde Furlane. Trasmettiamo da Udine, sempre come diretta appunto anche oggi 2 aprile 2026. Ricordo che la trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione di Friuli e Trieste. Quindi il programma finisce alle 21.30, mancano circa 5 minuti. Ricordo i nostri contatti per chi volesse scriverci, può farlo tramite posta elettronica scrivendo a liberetutti@autistiche.org, ripeto liberetutti@autistiche.org, oppure scrivere in classico metodo cartaceo ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ripeto, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Bene, ricordo anche che questa trasmissione odierna, ma anche quella delle volte scorse, potete riascoltarla andando in rete nell'internet, e troverete zardinsmagnetixradio.noblogs.org, ripeto zardinsmagnetixradio.noblogs.org, e lì troverete tutto. Quindi l'appuntamento è per il prossimo giovedì. Ricordiamo anche che domani siamo in replica su due web radio, il venerdì dalle ore 11 su Radio Eustachio e dalle ore 17 su Radiazione. Quindi salutiamo tutti, a chi ci ascolta, e adesso sfumeremo questi Decadent, come ho detto, tedeschi, band anarcho-punk tedesca, e passeremo all'ascolto di una band slovena di Nova Gorica che sono gli Scaffi Dogs. Bene, ciao a tutti e al prossimo giovedì. We'll be right back. ucięcia trupla, przez serdoczaka ja pożgana miasta, w imu oczy ja moje poradzy, poznane mety są. Na na, na na na na na na na na na na na na na. Proszę kierują, bo ja mam kończał. Wyrwane igre, nie powiesz do wolił. Poczynę krzywą, nie rozstalił. Na na, na na na na na. Na na, na na na na. Na na, na na na na na. Na na, na na na na. Proki kierują, pana mordą czał. Wyrwane igre, ebo weź to wolił. Do cyle syntu, pierwą ustalił. Na na, na na na na na.